Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Entro 10 giorni la situazione dei rifiuti a Roma sarà riportata alla normalità. Lo ha affermato il sindaco Ignazio Marino, che in una conferenza stampa con i giornalisti ha illustrato, insieme all'assessore all'ambiente Stella Marino e al presidente AMA Daniele Fortini, le decisioni prese dopo la giunta straordinaria sulla questione rifiuti. Avremo da oggi 100 controllori sulle strade, 24 ore su 24, per valutare l'efficienza del sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Avremo 30 squadre giorno e notte con un compattatore, cioè un camion di medie dimensioni, e due operai. Quindi si tratta di due squadre per ogni municipio. Le persone potranno segnalare con una... Via via, non è che ci interessa in maniera particolare cosa faccia il sindaco Marino della spazzatura dei romani, però ci intriga una questione che ho visto sollevare da parecchie persone nei social network. Ci saranno questi agenti alla sorveglianza del pattume che dovranno vedere che le persone, verificare, compiano la raccolta differenziata nella maniera giusta, mettano la spazzatura nel modo giusto. Come fanno però a identificare il trasgressore, il terribile insozzatore dei nostri cassonetti? Dovranno andare necessariamente a sgufolare dentro la spazzatura per vedere se c'è qualche traccia che appunto può rintracciare il lordatore. E questo mi fa sorridere. Ho fatto una ricerca a rete, ho visto che in varie città d'Italia sono posti questo problema per vedere chi usa in maniera impropria il cassonetto della spazzatura. E per vederlo non c'è altra maniera che andare a vedere dentro, rovistare, trovi, che ne so, una busta con l'indirizzo Gianluca Nicoletti che ho buttato nel mio cassonetto dell'indifferenziata, assieme ai torsoli di mela, alle ossa spolpate della gallina, alla batteria usata della mia automobile e diciamo alla copertura di Ethernet del mio terrazzino, e naturalmente risalgono a me, io ho compiuto un reato, è giusto che mi prendano. Ma questo mi fa sorridere perché innanzitutto sono abituato a vedere gente che fruga nei cassonetti. Ormai il quartiere Prati è diventato un quartiere dove giorno e notte ci sono squadre di persone addette alla ricerca del cassonetto, vanno con il carrellino, prendono, stanno tutto il giorno lì, giorno e notte, una nuova attività. Poi vanno a vendere nei mercatini e gli umarel vanno a ricomprare nei mercatini gli oggetti rotti che hanno buttato nel cassonetto i nipoti e se li ricomprano. È una sorta di riciclo generale. Però mi viene da pensare che questa pratica, che si chiama trashing, che è una pratica clandestina, occulta e lievemente truffaldina che fanno i pirati informatici quando vogliono andarsi a cercare dei dati in giro, vanno un po' a rovistarne i cassonetti, magari davanti a un'azienda o magari davanti a un particolare ufficio, cercano di trovare qualche ricevuta bancaria, qualche scontrino, qualche lettera. Da lì ci sono dati interessanti sui conti correnti, sui movimenti. Se qualcuno è tanto ingenuo a buttare via la corrispondenza alla banca direttamente nel cassonetto, lascia di sé tracce molto profonde. Ma il trashing va ancora oltre. Alcuni paparazzi, soprattutto negli Stati Uniti, nei quartieri, nelle città dove c'è un grande passaggio di divi e di VIP, vanno, è una pratica proibita, non si può perché viene considerato il cassonetto come facente parte della vita privata di una persona, vanno a prendersi, che ne so, di una famosa diva della televisione o del cinema, il sacchetto e la spazzatura, aprono e poi tirano fuori tutto, dalle cose più indecenti, i preservativi usati, gli scontrini, le medicine che prende, via dicendo, le mettono tutto sopra un bel foglio, fanno una foto e esce fuori, diciamo, la foto scandalistica con quello che il divo ha buttato nel cassonetto. Ho fatto una ricerca, ho visto che quello del dumpster diving è una pratica molto diffusa. YouTube è pieno di gente che come sport e passatempo si tuffa nei cassonetti. Il termine vuol dire proprio tuffarsi nel cassonetto. C'è tutta una cartellonistica che puoi attaccare al cassonetto per sapere se c'è roba buona, roba cattiva. Vanno a cercare pezzi di computer, oggetti informatici, le cose più strane. E questo, diciamo, è ancora un divertimento. Poi ci sono degli estremisti ecologisti che dicono che bisogna andare a razzolare nei cassonetti il cibo perché sennò se ne spreca troppo, e hanno, diciamo, dei movimenti proprio dumpster diving che si organizzano per andare a prendere il cibo nei cassonetti. Ecco, tutto questo mi fa riflettere, mi fa porvi una domanda. Vi è mai venuta la tentazione di andare a cercare nella spazzatura di qualcun altro? Avete mai rovistato nella spazzatura? Ma nemmeno da ragazzino. Io lo facevo da ragazzino. Andavamo in delle grandi discariche, cercavamo dei tesori nascosti, tipo i motorini elettrici, dei frullatori, poi ci facevamo delle imbarcazioni che mandavamo sugli stagni, cose del genere. Ho visitato persone che lo fanno per disperazione. Sono stato alla periferia di Nairobi, Korogocho, la più grande discarica. Ci vivono migliaia e migliaia di persone, vivono sull'immondizia e tutto il giorno vanno ravanando sull'immondizia, poi fanno dei mercatini dove vendono le cose che hanno guadagnato. Ma una cosa orribile, ci sono le case costruite nei mucchi di spazzatura. Alla periferia di Città del Messico ho visto i Pepenadores, anche lì una popolazione di persone che vivono in immensi immondezzai, chilometri quadrati di immondezzaio dove vive la gente, tutto il giorno prende, ricicla e rivende. Beh, voi l'avete mai fatto, venuto in mente? E al contrario, buttate via sempre tutto di quello che tenete in casa, nella spazzatura, con l'attenzione che qualcuno potrebbe un domani ritrovarlo. Buttate via ricevute, lettere, fatture e comunicazioni della banca, oppure anche cose personali, anche le medicine che avete in casa. Buttare via il contenitore della medicina significa dare un'indicazione su quello che voi vi prendete, le malattie che avete, i problemi che avete. Liberarsi di presidi erotici della propria intimità usati significa dare dei segni palesi che si è consumato, non c'è nulla di male, ma però comunque questo potrebbe dare delle tracce alle persone che vogliono entrare nella vostra vita privata. Quanto racconta di voi la spazzatura? Ve ne siete mai resi conto? 800 24 00 24. Mara Mignone, buongiorno. Buongiorno. Allora, Mara Mignone è una criminologa, presidente del RISC, Centro Ricerca e Studi Sicurezza e Criminalità. Ha fatto uno studio proprio su questo. Vediamo se ci dà qualche elemento in più, dottoressa, su quello che è possibile trovare nella spazzatura di un italiano medio. Guardi, posso rispondere direttamente alla domanda che ha fatto e che ha posto agli ascoltatori. Quanto racconta di noi la spazzatura? Racconta praticamente tutto. Nel senso che il nostro livello di attenzione per quello che buttiamo via, ma soprattutto per come lo gettiamo via, è assolutamente insufficiente a tutelarci rispetto a tutta una serie di profili di rischio. Noi ovviamente non ce ne rendiamo conto. No, non ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo analizzato il rischio rispetto al furto di identità, quindi alla possibilità che qualcuno possa impersonificarsi, termine brutto, ma è la traduzione dall'inglese impersonification, e quindi in qualche modo spacciarsi per noi e con la nostra identità fare tutto quello che potremmo fare noi, quindi avere un finanziamento piuttosto che acquistare un bene a rate, oppure qualsiasi tipo di attività che noi vorremmo fare. Quali sono questi tracciatori che noi ci dimentichiamo, le mollichine di pollicino che lasciamo nella spazzatura senza pensarci? Lei ha fatto ha fatto un'indagine concreta su un campione di italiani? Sì, no, allora noi abbiamo fatto un'indagine, diciamo un primo studio nel 2007, lo abbiamo realizzato a Schio in provincia di Vicenza, e il nostro obiettivo era capire appunto se all'interno dei rifiuti, i rifiuti indifferenziati, quindi i sacchetti che mettiamo fuori, e all'interno della raccolta carta ci potessero essere tracce di noi, e quindi tutta una serie di elementi, di informazioni che un malintenzionato poteva utilizzare per ricostruire la nostra identità. Abbiamo fatto, ovviamente in collaborazione con il comune e con la municipalizzata del comune, un campionamento sia appunto del rifiuto indifferenziato che è stato raccolto sia nella zona residenziale sia nelle zone industriali, quindi abbiamo campionato sia quello che veniva buttato via dai cittadini sia quello che veniva buttato via da uffici e aziende, e in più abbiamo campionato anche la raccolta della carta, quindi i cassonetti dove viene conferita la carta. E in media cosa è venuto fuori? Che nell'87% dei casi, sia nel rifiuto residenziale sia nel rifiuto industriale, è possibile ricostruire, campionare le identità. Questo vuol dire che è possibile ricostruire quelli che sono gli elementi caratterizzanti una famiglia per quanto riguarda ad esempio le movimentazioni bancarie, piuttosto che profili legati alla salute, a cui faceva riferimento lei prima, tutte le utenze, tutti quei, ad esempio quei codici identificativi di una persona. Noi spesso non siamo conosciuti per il nostro nome e cognome, siamo conosciuti perché siamo intestatari di un conto corrente che quindi ha un numero. Anche le bollette, metta caso, qualsiasi bolletta comunque corrisponde a un codice, si vedono anche i consumi. Allora fermiamoci solo un istante, sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24, la domanda è: vi rendete conto quanto di noi ogni giorno mettiamo nel cassonetto? E Tuteliamo sufficientemente la nostra privatezza facendolo? Seconda domanda. Voi al contrario, è venuta mai la tentazione di andare a rovistare nei fatti altrui guardando nel cassonetto? Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi è successo da militare di rovistare nel cestino della carta. Mi sente? Sì, benissimo. Sì. Facevo il soldato semplice, dattilografo, e c'era questo maresciallo che ci strigliava un po' troppo. E ogni tanto ci dava delle minute che noi dovevamo trascrivere in macchina e qualche volta erano sbagliate. Uno naturalmente trascriveva anche l'errore perché non ci si poteva permettere di correggerlo. E lui dopo un po' tornava e diceva: ah, qui avete sbagliato, no? E faceva rifare senza dire è colpa mia. Allora io rovistando nella carta, quando veniva vuotato, ho recuperato queste minute chiaramente errate e me le sono messe in tasca. E il giorno è venuto che lui ha strigliato un mio compagno commilitone, ingiustamente, sono andato al colonnello e ho detto: guardi, qui succede così, che questo no, ci prende. Insomma, ha denunciato la defaianza del maresciallo. Sì, guardi, qui ci sono le prove. Con un'operazione vigliacchissima di trashing. Ha preso una strigliata di quelle che se l'è ricordata. Ecco, lei, ricordo lontano di Naia, lei pensa nella vita comune e quotidiana. Quante uscite dalla regola potremmo segnalare andando a vedere nel sacchetto la spazzatura dei nostri vicini di casa, soprattutto in questi periodi estivi in cui le persone tendono a allungare il guinzaglio delle loro attese, dei loro desideri. Luca. Eccomi, ciao. Lei è un rovistatore nella spazzatura? Ma diciamo che... No, lo dica, non bisogna dirlo, non bisogna... Io ho rovistato molto ragazzo nella spazzatura, sì. E ancora ogni tanto quando vedo uscire dai cassonetti cose strane mi verrebbe la tentazione di andare a vedere cos'è. Ma io spesso lo faccio, nel senso che se vedo delle cose in buono stato appoggiate vicino alla spazzatura eccetera, tipo atti da stiro... È un peccato, come si fa a non mettere la mano dentro e vedere cosa c'è? Esatto, faccio un esempio. Tra l'altro quello che mi è piaciuto di più, per esempio, è davanti a una libreria vedere un cassonetto della carta straboccante di libri che la libreria o il negozio quindi stava buttando via perché magari c'erano le copertine un po' rovinate, erano vecchie edizioni. Io penso che l'altro giorno ho visto un'enciclopedia che avevo a casa quando ero ragazzo, era tutta completa appoggiata davanti a un cassonetto. Avevo la tentazione, ma avevo fretta. E ho visto un lettino completo da bambino con materasso, lenzuolino. Sì. Sembrava lì un bambino che l'avevo messo lì a dormire, appoggiato a un cassonetto. Ma tra l'altro ho dato anche il cattivo esempio, tra virgolette, perché io ho rovistato tra questi libri e ho trovato una piccola enciclopedia tascabile, di quelle molto belle, illustrate, eccetera, e me la sono presa. E nel frattempo è arrivata una donna che mi dice: ma cosa sta guardando? Dico: guarda, ci sono qua degli altri libri, per esempio delle canzoni in inglese. E lei si è illuminata e mi ha detto: ah, io sono un insegnante di inglese, che bello, le canzoni in inglese, queste qua le porto ai miei e ragazzi. E si è tuffata nel cassonetto anche la professoressa. E anche lei si è messa nel cassonetto a rovistare, solo che poi sono uscito da quel cortile e la mia compagna che era con me, eravamo in visita a Treviso, mi ha fatto una scenata dicendo che si vergognava andare in giro con uno che era vicino. Vabbè, schizzinosa, sì, perché ogni tanto uno ci trova dentro qualche buccia infradiciata di mela, qualche topo morto, quello sì, ma sì, se una pulita torna come carta, nuova. Era veramente il bidone soltanto della carta e con i libri. Qualcuno ci butta anche la carta igienica usata, però bisogna stare un po' attenti. Perché, No, esistono certe parti dove non c'hanno molte fognature funzionanti, usa metterle nei sacchetti e le mettono, buttano nel cassonetto. Ma io soffro a vedere buttare via i libri, è troppo triste. Melog, cronache meridiane. Gli italiani ravanatori nella spazzatura esistono, ci sono, facciamo anche noi parte di questo esercito, diciamolo, visto che i sindaci si stanno organizzando per mettere dei ravanatori prezzolati, magari chi lo fa per gusto, per diletto e per lussura potrebbe presentarsi volontario. Ieri ho visto dal vetro di una pizzeria la preparazione dell'attrezzatura del ravanatore. C'era un ragazzo, si prende una gruccia per vestiti, quelle di fil di ferro, si sdipana, si tiene l'uncino, si fissa un bastone, manico di scopa, si lega forte e si comincia a razzolare dentro la spazzatura. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Lei ravana nella spazzatura? Sì, con la distinzione, non nell'organico, però... No, l'organico fa schifo, quello no. Esatto, però più... Anche se lì tante volte, un ossicino per il cane. Cinto, cantine, mi è capitato di trovare dei simpatici pezzi di modernariato. Dentro il cassonetto proprio? No. Da noi il cassonetto non c'è più da tempo. E dove la mettono la spazzatura? E viene messa a fianco, quello che diciamo è il rifiuto ingombrante. Quello che viene smaltito. Ah, a fianco del cassino, c'è di tutto sotto casa mia, frigoriferi, ci si mette di tutto. Esatto. Bidet, tazze intere. Sì, no, per esempio anche una vecchia Olivetti con la sfera che vediamo nei telefilm o nei film di James Bond. Ecco, mi è capitato di trovare oggetti carini di questo. Quindi c'è soddisfazione. Oltre che il libro piuttosto che il mobiletto grazioso. Ecco. Zaccaria, no. Buongiorno Zaccaria. Buongiorno a lei. Niente, la mia esperienza l'ho fatta in un periodo in cui facevo l'assessore e siccome abito vicino a un centro commerciale dove la gente veniva via al centro e buttava via. In che zona d'Italia? Provincia di Vicenza. Vicenza, sì. Molto vicino a Schion dove la dottoressa ha fatto la sua indagine. E praticamente a Schion hanno visto la Madonna anni fa, vero? Era lì? Sì, era Poleo comunque. Sì, da quelle parti c'era un'apparizione di Madonna. Beh, sì, tutto succede a Schion. E niente, io nella mia attività di assessore avevo questa, quando trovavo questi sacchetti, guardavo dentro questi sacchetti, si trovava sempre qualche targhetta di qualche rivista e compagnia bella, una volta che e quasi sempre trovavo qualche indicazione di chi era che aveva buttato il sacchetto, poi chiamavo i vigili ovviamente che venivano a... Diciamo, era prova sufficiente, potevate procedere. Facevano le multe. Come? Potete procedere contro il lordatore dall'etichetta che trovavate dentro il sacchetto. Sì, e quasi sempre si trovava un indizio di qualcuno, di chi era, che aveva buttato... Quindi lei è d'accordo che molto della nostra vita sta nel sacchetto della spazzatura che buttiamo in giro? Penso che il 90% dei sacchetti che preventivamente ho aperto e poi ho chiamato ovviamente i vigili per fare l'accertamento, ci si trovava sempre qualcosa che faceva riferimento a chi era... Ma trovava anche oggetti imbarazzanti, prove No, io puntavo subito a trovare qualche etichetta. Non guardavo il resto, non mi interessava il resto, cercavo solo etichette per sanzionare chi buttava in giro la spazzatura. Allora, riprendo con la dottoressa Mara Mignone, che ricordo criminologa e presidente del RISC, Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità. Riprendiamo il punto. Fa parte, diciamo, dei protocolli per un'indagine nei confronti, diciamo, di criminali o presunti tali, andare anche a guardare nella spazzatura, quindi evidentemente c'è una metodologia. Sì, in realtà diciamo che questa metodologia è stata utilizzata nell'ambito della ricerca quando circa una decina di anni fa si è cominciato a parlare dei crimini di identità e del furto di identità. A casi simili a questo, e quindi alla ricerca che abbiamo condotto noi, sono stati realizzati in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, che sono un po' le aree dove poi i crimini di identità sono, diciamo, esplosi per tutta una serie di condizioni relative a quei contesti. Quindi il nostro obiettivo è stato proprio quello di provare con un esperimento pilota a capire se anche noi potevamo essere vulnerabili al furto di identità e se noi stessi come cittadini possiamo essere poi un po' la causa quali dei facilitatori quasi per un ladro di identità, e purtroppo la risposta è stata positiva. Ma vorrei anche aprire un altro elemento di discussione, perché noi ora parliamo dei cittadini, però noi abbiamo campionato anche l'utenza, chiamiamola business, quindi dai professionisti fino alle aziende, e la quantità e la qualità delle informazioni che vengono buttate via anche, diciamo, da soggetti professionali è particolarmente elevata. Le dirò dottoressa, io una volta ho trovato le pulizie di Pasqua, aveva fatto un avvocato in un palazzo vicino a me. Le dico, anche noi purtroppo. Mi sono vergognato di quello che vedevo, perché c'erano tutti gli atti di tutte le cause, i processi, anche penali, con i nomi delle persone, gli interrogatori. Sì. Roba vecchia, sì. Ma comunque erano lì, con nomi, cognomi, noi... indirizzi. Noi invece le posso dire che abbiamo trovato, tanto per fare un esempio, una cartella di un'assicurazione che aveva praticamente buttato via integra una serie di faldoni di carta legati insieme con del nastro, dentro c'erano tutte le cause che c'erano state per incidenti, con tutte le generalità delle persone coinvolte, i periti, le foto, le targhe, qualsiasi cosa relativo all'anno precedente. Non pensiamo alle cartelle cliniche quando buttano via negli ospedali, nei cassonetti. Abbiamo trovato anche quelle. Sono dati molto importanti, molte volte quando si parla di patologie delle persone. Antonio, buongiorno Antonio. Sì, buongiorno, salve. Volevo raccontare la mia esperienza newyorkese. Sono stato per 3 mesi ad abitare a Park Slope a Brooklyn. E che è successo? Praticamente i primi tempi non mi rendevo conto come mai, pensavo che ci fossero tutte le case che abbandonassero l'immondizia al di fuori degli appartamenti. Ora non era immondizia in quanto rifiuti organici eccetera eccetera, oggetti. Ma parlo esatto di oggetti. E all'inizio non capivamo, noi italiani non capivamo cosa succedesse, poi in realtà ci accorgevamo che le persone prendevano quello che serviva e lo portavano in casa nel quartiere, e così abbiamo fatto anche noi. Abbiamo arredato la nostra stanza, dove abbiamo vissuto per 3 mesi, che era una stanza vuota, con vari oggetti che abbiamo trovato, anche dei personal computer completamente funzionanti, sono stati riportati solamente in riparazione, con pochi dollari abbiamo avuto un personal computer. Certo, non oso pensare cosa uno lascia di sé quando lascia un suo personal computer, è ancora peggio, no, buttare via il vecchio computer e buttare via gli anni della propria vita in cui si è usato quel computer. Esatto, e poi il pensiero che noi dopo 3 mesi avremmo dovuto lasciare New York e affrontare anche una spesa per l'arredamento, abbiamo lasciato la stanza a persone che poi hanno preso quella stanza con i roster ready a costo zero. Comunque a Berlino c'è, e in Germania c'è tutto quanto, inoltre un'organizzazione che è freelance, quindi non ha nessun scopo di lucro, che si occupa di prendere dai magazzini la frutta e la verdura non putrefatta, sì, vicino, ma, alla diciamo, scadenza, vicino alla scadenza, e che si occupa non di rivenderla ma di distribuirla a tutta la città. Sì, questo poi è un altro fenomeno, parliamo proprio l'ultimo utente che va proprio a finire dentro il cassonetto, questa è un'altra cosa, un altro ragionamento. Tonino. Sì, buongiorno Gianluca. È un ravanatore. Sì, perché praticamente sto facendo una battaglia con chi getta nei nostri secchi della dei rifiuti differenziati, noi siamo nel 6 villette, sì. E abbiamo questa persona che non riesco ad identificare. Cosa ci butta? L'umido dentro? No, tutto mischiato. Che no? Schifo. Chiaramente siete vicini all'identificazione? Guarda, io ogni volta vado ad aprire la busta e vado alla ricerca dell'identità. E cosa hai trovato finora? Che ti niente, non sono riuscito a recuperare. È astuto come una lince questo qua, figuriamoci. Capito come? Non lascia nulla. Prima o poi sbaglierà, guarda. E cosa ci trova dentro questi sacchettini? Le schifezze, basta. C'è tutto, i rifiuti del gatto che mangia, birra, bottiglie di birra mischiate. Ma nemmeno uno scontrino trova, niente. Niente, neanche uno scontrino. Ho trovato soltanto le ricevute di un'analisi clinica, che però non è di lui, ma è di una persona che abita in un paese vicino. E che malattia c'aveva? E questo erano analisi cliniche della glicemia. La glicemia. Forse magari c'è una certa età. È lì, però voglio andare lì perché. Va bene, continui la sua indagine. Grazie, dottoressa Maravignone. Come vede, le sue istruzioni sono state prese alla lettera subito dal nostro ascoltatore. A domani.